Il brutto d'Italia secondo il FAI. Tra i luoghi più votati nell'ambito del censimento dei luoghi del cuore emerge in Lombardia il caso del Grand Hotel Campo dei Fiori a Varese. Situato all'interno del parco regionale, dunque in zona protetta, si staglia sulla vetta prealpina più alta di tutta la provincia. Il Grand Hotel è uno splendido e importante esempio di architettura liberty nel nord Italia. Progettato dall'architetto Giuseppe Sommaruga tra il 1910 e il 1912, è purtroppo ormai chiuso da molti anni. Nel passato era conosciuto come un complesso lussuoso e di pregio, frequentato da facoltosi ospiti che potevano raggiungerlo utilizzando una spettacolare funicolare, l'unica presente in città. Inspiegabilmente si è lasciato che una selva di antenne e antennone venissero collocate proprio sulla sommità dell'hotel, deturpandone irrimediabilmente il profilo. Queste antenne, oltre a essere visibili da numerosi punti della bellissima zona naturalistica, gravano sensibilmente sul tetto, tanto da poterne causare il crollo. I segnalatori chiedono che le antenne vengano spostate altrove, in un punto che non comprometta il patrimonio artistico e naturalistico del loro luogo del cuore. Se vuoi vedere ciò di cui parliamo, vai sul sito radio24.it, dove potrai scoprire come partecipare all'iniziativa del FAI, I luoghi del cuore.